in primo piano. Buongiorno, buongiorno a tutti gli ascoltatori. Sì, è proprio G8, oggi nelle prime pagine dei giornali quasi non c'è altro, sì, ci sono altre notizie, ma tutte di taglio basso, le aperture sono tutte dedicate al vertice che si aprirà domani all'Aquila. E allora leggiamo i titoli. Il Corriere della Sera apre con Brown sì alle regole italiane. Il Guardian, Roma fuori dal G8, Berlusconi un'assurdità. Il Sole 24 Ore titola per il G8 missione fiducia, l'Ecofin per le banche più riserve e flessibilità contabile. Repubblica, G8, Hu Jintao lascia il vertice, rientra in Cina per la rivolta, scontro Berlusconi Guardian. La Stampa, i grandi del mondo all'Aquila, il Guardian fuori d'Italia dal G8, Berlusconi cantonata di un giornaletto. Il Foglio, i guardiani del G8, ovviamente un gioco sulla testata del giornale britannico, Guardian. Il Cavaliere elenca i suoi meriti, la migliore organizzazione di sempre, e cerca di sorvolare sulle critiche internazionali. Frattini attacca la topica del Guardian sulla gestione caotica del vertice. Ma qualche problema c'è, ammette il Foglio. Messaggero, crisi e clima, le sfide del G8. Il Manifesto, che ovviamente ha qualcosa di diverso da tutti gli altri, una vignetta in prima pagina di una vignetta di Vauro con le tende dei terremotati chiuse da un lucchetto e il titolo G8 al via, l'Aquila blindata. Avvenire, speranze e tensioni, due fronti per il G8, ma l'Avvenire ricorda l'enciclica del Papa Benedetto XVI, Caritas in Veritate, che si occupa di temi economici e riguarda da vicino il vertice che si sta per aprire all'Aquila. Il Giornale, titolo sempre sul G8, ma con uno sguardo alle vicende interne, le ultime mosse del complotto. Si scatena il Guardian che parla di Italia fuori dal G8, il Premier è solo la cantonata di un piccolo giornale. Oggi parte il vertice, è gran giorno dei congiurati. Oggi il via al G8, Silvio bastona gli inglesi, titola Libero. Dopo la minaccia di pubblicare le immagini sexy, la stampa estera torna ad attaccare e chiede che l'Italia venga espulsa dal summit dei grandi. Berlusconi, colossale cantonata. L'Unità, l'intruso, con una foto di Berlusconi. Il Guardian, Italia fuori, troppe inadempienze, i grandi pronti a far entrare la Spagna al suo posto. Il Premier furibondo dice, è una cantonata. Poi i sondaggi sono con me. Il Riformista, l'ultimo G8 di Silvio. Scontro con il Guardian, Roma uscirà dal club. Il Premier ha preso una cantonata. Europa, l'organo del Partito Democratico. Napolitano prende la scena, l'Italia del G8 la salva lui. La Padania, invece la Padania apre su Bossi e Maroni, niente sanatorio, e al G8 dedica una grande foto di prima pagina con il titolo G8, no global scatenati. Il Viminale, isoleremo i violenti. Liberazione, il G8 di Papi. Anche il G8 in Italia sa di operetta, si apre oggi fra polemiche, disorganizzazione e sberleffi. Il Secolo d'Italia, veleni contro l'Italia. Bene, come avete visto, appunto, l'argomento è univoco e quindi anche la maggior parte degli editoriali e gli articoli di oggi sono dedicati al vertice che si sta aprendo all'Aquila. Prima ho detto domani, me ne scuso, ma purtroppo a queste ore mattutine magari si pensa di essere ancora il giorno prima. E invece mercoledì è oggi, per cui il vertice si apre oggi. E, dunque, io volevo partire dal Corriere della Sera, dall'editoriale di Sergio Romano, La vera immagine di un paese. Sergio Romano, come è già stato ricordato prima da Alessandro Milan, sarà ospite più tardi di Radio 24, per cui passerei alla nota interna di Massimo Franco, sempre nel Corriere della Sera, che mi sembra molto interessante. Scrive Massimo Franco: esiste una zona grigia nella quale non solo il governo ma i suoi alleati saranno costretti a muoversi nelle prossime ore. È il grigiore nebuloso di un'incertezza innegabile. Quella dell'Aquila si presenta come una vetrina impegnativa ma anche scivolosa, soprattutto per il nostro paese. Palazzo Chigi ha compiuto uno sforzo enorme per ospitare i cosiddetti grandi nelle zone devastate dal terremoto. Rischi sismici a parte, però Berlusconi approda al vertice provocato dalle forche caudine delle sue vicende private. E seppure in modo meno rumoroso e pubblicizzato, da un contesto internazionale nel quale spicca la sua amicizia con la Russia di Medvedev e di Putin, più ancora di quella con l'amministrazione democratica di Barack Obama. È probabile che all'estero, conclude Massimo Franco, si trasmetta un'immagine caricaturale dell'Italia e che si diano per irreversibili rischi al contrario solo tendenziali. All'origine rimangono l'incomprensione e l'ostilità nei confronti del fenomeno Berlusconi. Eppure bisognerebbe chiedersi se sia stato fatto il possibile per non alimentare cliché deteriori che alla fine rischiano di oscurare anche le scelte azzeccate. Beh, certo, Massimo Franco dice che l'Italia ha una brutta immagine all'estero da sempre e quando noi italiani prestiamo il fianco all'estero ci inzuppano i biscotti nel cappuccino e sono ben felici di rivoltarci contro i soliti luoghi comuni che da decenni ci affliggono. La Repubblica ha un fondo del direttore Ezio Mauro. Il Presidente del Consiglio ha perfettamente ragione su un punto, scrive il direttore di Repubblica. Mentre si apre un summit, il cui successo è importante per il nostro paese che lo ospita, c'è qualcosa in queste settimane che fa molto male all'Italia. È il suo comportamento privato unito alle menzogne pubbliche che cercano di giustificarlo. I giornali stranieri e Repubblica, come regola nel mondo libero, non fanno altro che dar conto di questo ai cittadini lettori. Tutto il resto, campagne, manovre, eversioni, non è nemmeno un giudizio politico. Semplicemente, come ha detto ieri il direttore del Sunday Times, è una stupidaggine. E poi andiamo avanti. Il Foglio, anche il Foglio, dedica grande apertura, come dicevo prima, al vertice e scrive in un articolo non firmato. Così alla fine sui siti Facebook e Twitter le parole del ministro Frattini sono state ancora più colorite. Che topica il Guardian? Scambia l'Italia per l'Inghilterra. Dice che gli Stati Uniti hanno preso in mano l'organizzazione del G8 dirigendo una conference call e non si accorge che si trattava invece del G20. Un caso di fuoco amico. Se fossero così onesti da riconoscerlo. Non è la prima volta che il ministro Frattini reagisce così duramente a un attacco della stampa estera. Anche in seguito agli affondi passati del Times, del Pais, aveva reagito con forza. Fonti del Foglio spiegano che il capo della diplomazia italiana soffre molto il fatto che i media stranieri spesso non offrono un'immagine corretta dell'Italia. Mentre gli altri paesi hanno uffici predisposti per vendere la loro immagine, l'Italia non viene quasi mai citata, neppure per le iniziative che godono di grande consenso internazionale, come l'Afghanistan, per esempio. Sì, in questo caso, più che un complotto contro l'Italia, forse è colpa degli italiani che non sono capaci di promuovere la propria immagine positivamente all'estero. Il Messaggero, invece, ha un fondo dell'ex presidente della Repubblica, Carlo Azeglio Ciampi. L'efficacia dell'agire, l'etica e l'Europa è il titolo di questo fondo e scrive Ciampi. Constatiamo che i singoli paesi hanno fatto qualcosa, poco, ma ancora meno ha fatto globalmente l'Europa, che non riesce in nessun modo a coordinarsi. Persiste il dualismo Cina-USA, i mesi passano e la crisi non viene davvero affrontata. Questa è l'amara realtà. Ha ragione Jean-Claude Trichet, il presidente della Banca Centrale Europea, quando insiste a chiedere al governo dell'Europa un'azione rapida, audace e al tempo stesso credibile. Servono l'efficacia dell'agire e, insisto, il binomio strategico fiducia-credibilità. I due elementi interagendo fra di loro si rafforzano e irradiano positività. Il Manifesto, invece, ha un fondo di Giampaolo Calchi Novati. Il G8 fatica perché si muove fra futilità e sovrabbondanza. È nato con un direttorio che sceglie da sé solo i suoi membri e che nello stesso tempo pretende di essere universale. Auspicare che l'America sia finalmente in grado di imprimere una sterzata positiva alla politica mondiale sarebbe in controtendenza rispetto a una conferenza che non vuole dispiacere i comprimari. Siamo nel bel mezzo di un periodo storico all'insegna della carenza di potenza, con i molti cerchi di instabilità che ne derivano, ma con un potere economico distribuito. Più libertà e prodromi di multipolarismo. Il ritorno alle arti della superpotenza sarebbe una regressione rispetto al passato. E tra l'altro ormai di superpotenze ce ne sono varie, perché oltre agli Stati Uniti e alla Russia si sta si è già affacciata al palcoscenico internazionale la Cina, che ambisce a un ruolo di superpotenza globale e planetaria. Libero, invece, ha un fondo di Gianluigi Paragone. Colossale cantonata di un piccolo giornale è stata la replica del Cavaliere. È una buffonata, gli ha fatto eco il ministro degli esteri Franco Frattini. Insomma, niente sconti e nessun cenno di galanteria verso chi si ostina a metter melma nel ventilatore acceso. Effettivamente ci siamo rotti di queste spacconate che arrivano dai giornali d'oltremanica. Pensino alle gaffe dei loro principi se proprio hanno voglia di spettegolare. Perché di questo stiamo parlando, di puro gossip. Beh, devo dire che i giornali britannici alle gaffe dei loro principi ci pensano abbastanza, infatti sono sempre i primi a metterle in rilievo. Bene, dopo aver letto appunto gli editoriali sul G8 che si apre oggi all'Aquila, volevo anche passare sempre riguardo al G8, però a degli argomenti un po' collaterali, a delle interviste che i giornali, a degli approfondimenti che i giornali pubblicano. La Stampa, per esempio, ha un'intervista al segretario di Stato americano Hillary Clinton, che illustra cosa l'amministrazione Obama intende fare per contrastare la fame nel mondo e soprattutto rilanciare l'agricoltura, perché l'unico modo per sfamare il globo è far sì che cresca la produzione agricola in vaste aree del terzo mondo che sono incolte o soprattutto coltivate male. Primo, dice Hillary Clinton, l'amministrazione Obama cercherà di incrementare la produttività agricola allargando l'accesso a semi di alta qualità, a fertilizzanti, sistemi di irrigazione e linee di credito per procurarseli e imparare a usarli. Secondo, lavoreremo per stimolare il settore privato a migliorare lo stoccaggio e la lavorazione del cibo, migliorare le strade nelle campagne e i mezzi di trasporto. Terzo, siamo determinati a preservare le risorse naturali in modo che la terra possa essere coltivata dalle generazioni future. Ciò include anche aiuti per fronteggiare i cambiamenti climatici. Quarto, espanderemo la conoscenza e l'addestramento appoggiando programmi specifici di ricerca e sviluppo e coltivando la prossima generazione di esperti di piante. Quinto, cercheremo di aumentare il commercio mondiale in modo che i piccoli agricoltori possano vendere i loro prodotti anche su mercati lontani da loro. Sesto, daremo il nostro sostegno alle politiche di riforma e corretta gestione. Abbiamo bisogno di politiche responsabili e di regole chiare per far prosperare l'agricoltura. Settimo, aiuteremo le donne e le famiglie. Il 70% dei contadini del mondo sono donne, ma la maggior parte dei programmi che offrono crediti e corsi di formazione agricola sono rivolti soprattutto agli uomini. Questo è ingiusto e poco pratico. Sì, è assolutamente ingiusto e poco pratico ed è anche un'assoluta contraddizione. Il Corriere della Sera invece intervista il ministro degli esteri britannico Gordon Brown e anche lui parla di fame nel mondo. La fame nel mondo è un'emergenza assoluta, una priorità, dice Gordon Brown. Ci sono 1,1 miliardi di persone che soffrono per la carenza di cibo. Non si può fare finta di niente, noi dobbiamo garantire fondi sufficienti alle aree depresse del globo. In tal senso ci sarà un'iniziativa sia del presidente americano Obama sia della presidenza del G8. Bene, a questo punto siamo arrivati al momento delle strade in diretta e del traffico. In primo piano. Buongiorno, riprendiamo la rassegna stampa. Io sono Alessandro Marzomagno, questa è Radio 24, come vi dicevo prima. Stavo leggendo alcuni articoli che riguardano il G8 che si apre oggi all'Aquila, ma così alcuni aspetti laterali, chiamiamoli, di questo vertice. Per esempio, il Sole 24 Ore pubblica un interessante intervento di Martin Wolf sull'India. E il titolo è «Quando l'India entrerà nel club dei ricchi». Sappiamo che i due giganti asiatici sono la Cina e l'India. La Cina ormai ha già pieno accesso ai vertici internazionali. L'India invece, che pur ha 1 miliardo di abitanti e una crescita economica spettacolosa, ne rimane fuori. Scrive Wolf: E dunque, cosa deve succedere perché gli indiani possano arrivare al benessere? La risposta, suggerisce il rapporto, è che l'India deve mantenere una crescita intorno al 10% l'anno per oltre una generazione. Non è qualcosa di inconcepibile. La Cina, che pure partiva più indietro, ci riesce da più di 30 anni, ma è un compito di enorme portata, specialmente in un paese smisurato, variegato e complesso come l'India. Dovrà avvenire un cambiamento straordinario dentro l'India e nel suo rapporto con il mondo. Perché ciò sia concepibile dovrebbero succedere almeno quattro cose. Il mondo deve restare in pace. L'apertura dell'economia mondiale deve persistere. L'India deve sfuggire alla stagnazione in cui sono caduti molti paesi a medio reddito. E infine bisogna gestire le implicazioni in termini di risorse, di ambiente e della sua ascesa verso la ricchezza. L'Avvenire, invece, il quotidiano dei vescovi, si riferisce all'enciclica papale che è detto dedicata ai temi economici e allo sviluppo, all'etica per lo sviluppo, e intervista Stefano Zamagni, un docente di economia dell'Università di Bologna, che è anche consultore del Pontificio Consiglio della Giustizia e della Pace. La domanda che gli pone il giornalista Francesco Riccardi è: professore, sembra una provocazione parlare di carità, di amore, di gratuità nell'economia. Non è una contraddizione troppo forte rispetto alle ferree leggi del mercato? E Zamagni risponde: questo è proprio il senso profondo dell'enciclica. Se il mercato continuerà a escludere il principio del dono, è destinato a implodere. E d'altro canto, la crisi in cui siamo sprofondati, le tante storture e ingiustizie che abbiamo sotto gli occhi lo evidenziano già. Il cambio di paradigma è la grande novità di questo documento. Bene, e poi volevo citare Il Giornale, che in un fondo che comincia in prima pagina di Andrea Tornielli scrive: è significativo, e si tratta di un'altra novità, che nella Caritas in Veritate siano state citate per nome tutte quelle esperienze positive, dal non profit alla finanza etica, che mostrano come sia possibile non soltanto fare buoni affari, ma anche affari buoni. Esperienze concrete già in atto, che partono dalla considerazione che la famiglia umana è appunto una famiglia, e che squilibri, ingiustizie, avidità a lungo andare si ripercuotono negativamente anche su chi oggi sta meglio. Bene, concludiamo qui questa lunghissima carrellata sul G8 e veniamo all'altro tema del giorno, ben più meschino, ahimè, casalingo, ma è quello delle frasi del leghista Matteo Salvini, anzi della canzonetta del leghista Matteo Salvini contro i napoletani. Massimo Gramellini, in prima pagina della Stampa, scrive un corsivo sempre graffiante come nel suo stile: il Galateo secondo Matteo. Fino a una ventina d'anni fa i politici desideravano ancora dimostrarsi diversi dalla parte più becera dei loro elettori. E questa diversità imponeva il rispetto di un Galateo minimo, ipocrita finché si vuole, ma tale da tirare una netta linea di confine fra il Parlamento e il bar sport. In seguito è scattata la rivoluzione della sedicente spontaneità. La politica ha smesso di parlare con la gente, ma ha cominciato a parlare come la gente. La Padania invece è molto soft su questo tema, ha un riquadro a pagina 5 dove lo stesso Matteo Salvini spiega che si è dimesso da deputato a Roma e ha optato per Strasburgo, ma perché era obbligato a farlo. Una coincidenza, dice Salvini, a differenza di quanto comunicato da alcune agenzie, mi sono dimesso solo ed esclusivamente per motivi burocratici legati alla mia elezione a Bruxelles. L'Unità pubblica un articolo di Marcella Cernelli su questo tema, che scrive: il video delle performance diffuso in rete ha scatenato un vero e proprio putiferio, con gli esponenti politici, indipendentemente dallo schieramento, ma uniti dalla napoletanità, a chiedere scuse e dimissioni. E con Umberto Bossi, che ha definito stronzate il tutto, precisando che le dimissioni sarebbero dovute arrivare, ma solo perché il suo deputato cantava male. E sempre a questo tema si dedica anche Francesco Merlo su Repubblica. Merlo scrive: il video è una pena perché conferma iconicamente che c'è una sacca di marciume in Italia, che c'è un nesso tra gli ultimi giri di vita razzista della legislazione maroniana e questi cori. sempre i cori politici esprimono lo spirito di combriccola, il rumore che sovrasta l'intelligenza, la viltà individuale, il sostenersi reciprocamente nel buio di un'ideologia, un barcollare da ubriachi che sembra un temibile passo cadenzato. Ebbene, il mondo visto da questi coristi è il mondo delle ronde contro le povere nigeriane, delle impronte ai bimbi rom, dei vagoni della metropolitana riservate agli italiani. Ecco, adesso una breve carrellata, perché non ci resta più molto tempo, su altri temi. Il Corriere della Sera pubblica un interessante pezzo negli esteri a firma di Marco Dal Corona, da Urumqi, la capitale del Xinjiang, la regione cinese dove si sono svolti quei durissimi scontri con oltre 200 morti. Ebbene, Del Corona è andato a Urumqi, è andato in una gita organizzata, sono quelle che appunto vengono chiamate gite governative, perché sono governo, sono le autorità che portano i giornalisti blindati e li fanno vedere quello che vogliono loro. Però anche in questo caso, anche se sono gite organizzate, si vedono sempre delle cose. Per esempio, Del Corona ha visto bande di gruppi di cinesi Han armate di bastoni, donne uigure che dovevano in teoria applaudire al governo cinese, che invece mostravano le foto dei loro uomini scomparsi, e per cui anche in questo caso si è riuscito a vedere qualcosa. Bene, anche quest'oggi abbiamo concluso la rassegna stampa e ci risentiremo domani alle 7:30, e ora ridò la linea a 24 mattina con Alessandro Milan.